Numero 1. Buongiorno, mi dica. Buongiorno, mi chiamo Barnes, David Barnes. Ah, sì, signor Barnes. Lei è di Cambridge, vero? Esatto. Allora, benvenuto a Firenze. Grazie, ho prenotato una camera matrimoniale. Sì, con bagno, vero? Sì, con bagno. Per 3 notti, giusto? No, per 4 notti. Ah, certo, mi scusi, per 4 notti.